Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati. A tutti e voi, cari ascoltatori, il mio saluto e bentrovati a questo nostro appuntamento mensile che si propone di percorrere il racconto degli Atti degli Apostoli. Nel nostro percorso lungo la parola di Dio siamo arrivati al capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, quando Paolo, dopo tutte le traversie del suo viaggio, finalmente approda in terra italiana dopo un naufragio e dopo una sosta di alcuni mesi nell'isola di Malta. Nella conversazione di questa sera noi ci dedicheremo a un solo versetto della narrazione, un versetto che esattamente è il versetto 12 del capitolo 28, dove si dice che approdammo a Siracusa, cioè Luca racconta che Paolo insieme agli altri prigionieri approda a Siracusa, dove rimanemmo 3 giorni. Praticamente noi dedicheremo l'intera conversazione di questa sera a questo solo versetto. Per chi segue queste nostre conversazioni sa che nell'ultimo nostro momento di dialogo alcuni ascoltatori avevano posto alla fine della trasmissione alcune domande relative proprio alla presenza di Paolo a Siracusa e soprattutto nella terra di Sicilia, e da quelle domande sono stato sollecitato ad approfondire la questione, quindi questa sera vorrei, nel limite dei miei approfondimenti, nel limite delle mie possibilità, cercare di scavare la storia e la tradizione della presenza paolina in terra di Sicilia, che è una presenza davvero, mi sembra, molto interessante e molto significativa. Prima però di iniziare il nostro dialogo, il nostro ascolto della parola di Dio, come sempre vogliamo invocare il dono dello Spirito. Il titolo della nostra trasmissione è proprio «La tua parola mi fa vivere», quindi non le parole di chi commenta, non le parole del relatore, ma la parola di Dio. Quindi non dobbiamo mai perdere questo punto di vista, cioè il centro di queste nostre puntate, di questa nostra conversazione è proprio quello di far vedere come la parola di Dio è viva e attraverso, in queste puntate, l'esperienza di Paolo si trasmette e genera tutta una serie di tradizioni. Quindi chiedo proprio allo Spirito Santo di illuminare me che parlo, voi che ascoltate, quanti poi interverranno con le loro domande, in modo che la parola di Dio possa davvero illuminare la nostra esistenza e scaldare il nostro cuore. Tra l'altro mi piace condividere con voi il fatto che sono da poco, proprio 2 orette fa, tornato da un'esperienza molto molto bella in terra di Puglia. In questi giorni ero a Barletta e mi sono proprio trovato lì provvidenzialmente per la solenne festa dei Santi Patroni, e ieri sera ho condiviso con tutta la comunità di Barletta la solenne processione della Madonna dello Sterpeto. E devo dire che è la prima volta che partecipo ad una processione di questo tipo, no? Dove tutta la città è coinvolta all'interno di questo momento di riflessione mariana, mentre i santi patroni, quindi San Ruggero e la Beata Vergine dello Sterpeto, attraversano in un percorso che dura ben 2 ore e mezzo tutta la città di Barletta. Sono stato davvero colpito dalla devozione con cui la gente partecipa a questa liturgia e accompagna proprio il percorso della Vergine con un'intensa preghiera. Quindi mi viene spontaneo salutare anche dai microfoni di Radio Maria tutta la comunità di Barletta, soprattutto la comunità che ci ha ospitati, che è la comunità dello Spirito Santo guidata dal parroco Don Filippo. Davvero un saluto a tutti i barlettani con l'augurio che questi giorni così intensi di festa, di preghiera, di memoria, di meditazione attorno alla figura di Maria davvero lascino il segno nel cuore come l'hanno lasciato in me e anche nei confratelli che in questi giorni erano con me. da qui noi torniamo alla nostra conversazione sugli Atti degli Apostoli. Forse ricordate che Paolo approda in Italia dopo un percorso molto travagliato. L'intenzione di Paolo non era certo quella di arrivare in terra italiana con quella storia che ha avuto alle spalle, quindi un lungo naufragio nel quale Paolo e tutti quelli che erano sulla nave hanno perso tutto, nave, carico, tutto, si sono salvate solo le persone, grazie proprio all'intervento di Paolo. 276 persone, ci viene ben specificato dagli Atti degli Apostoli, erano con Paolo e con coloro che lo accompagnavano. Bene, tutte queste 276 persone si salvano sull'isola di Malta, dove svernano per 3 mesi, dopodiché salgono su una nave diretta in Italia, che proviene da Alessandria, ci dice il testo, e poi dice approdammo a Siracusa dove rimanemmo 3 giorni. Ora, cosa caratterizza la figura del Paolo che arriva in Italia? Possiamo dire che Paolo giunge in Italia con alcuni tratti che caratterizzeranno tutto il suo ministero, soprattutto il ministero in terra sicula, così come la tradizione lo svilupperà, perché il testo biblico ci riporta solo questo versetto, ma da questo versetto la tradizione ha fatto fiorire molti elementi che per noi è difficile dire quanto c'è di tradizionale e quanto c'è invece di storico, di reale, cioè è difficile dire non è storico, c'è la verosimiglianza di tanti fatti che devono farci pensare. Però prima di addentrarci in quello che la storia e la tradizione hanno mescolato e rinarrato, mi piace evidenziare proprio i tratti con cui Paolo arriva in Italia. Il primo tratto è certamente quello dell'acqua, un'acqua che durante tutto il percorso si è rivelata nel suo duplice volto, che ritroviamo del resto anche all'interno delle narrazioni evangeliche. L'acqua è minaccia di morte, pensiamo agli episodi come la tempesta sul lago o a episodi come la narrazione della parabola della casa sulla sabbia o la casa sulla roccia, dove le acque hanno un potere distruttivo per chi non è ben radicato. Però c'è anche l'altro lato della medaglia, dove l'acqua è simbolo della grazia. Quindi Paolo sembra trasformare l'immagine dell'acqua come strumento di morte in occasione di grazia, tanto vero che quel naufragio che lui vive diventa una benedizione non solo per la terra di Malta, ma per tutti i luoghi dove Paolo passa, al punto tale che persino i prigionieri che erano sulla nave con lui, e che sicuramente non erano degli stinchi di santi, ma avevano alle spalle una storia travagliata, vedono in Paolo un segno luminoso che rischiara la loro vita e ne portano in qualche modo l'impronta. Tra l'altro anche il comandante della nave resta talmente affascinato dalla figura di Paolo e dalla sua determinatezza che permette a Paolo di avere un trattamento, come dire, di favore, nel senso che permette a Paolo di incontrare dovunque va alcuni personaggi del luogo, siano già amici di Paolo oppure siano persone che si trovano nel bisogno. Quindi il primo elemento che caratterizzerà l'arrivo di Paolo in Sicilia è l'acqua. Perché dico questo? Perché dovunque Paolo andrà sgorgerà una fonte. Quindi quell'elemento che può essere un elemento distruttivo viene trasformato in un elemento di benedizione, tanto vero che dove Paolo va in genere, lo vedremo, sono dei luoghi paludosi dove l'acqua di morte, l'acqua imbevibile diventa acqua di grazia, diventa una sorgente che accompagna la storia dei paesi dove Paolo passa. Tra l'altro questo fa parte anche della tradizione profetica, pensate ad esempio a uno dei miracoli di Eliseo, del profeta Eliseo, quando di fronte a una sorgente malata come quella di Gerico compie tutta una serie di gesti che permettono di risanare quella sorgente, di far vivere le popolazioni che la abitano e di trasformare quel luogo in un punto di riferimento per tutte le generazioni successive. Tanto vero che la famosa sorgente di Eliseo ancora oggi è una meta di pellegrinaggi, nonostante i millenni che sono passati, che irrora tutta la zona di Gerico. Quindi, primo aspetto è l'aspetto che lega Paolo all'acqua, dalle acque di morte all'acqua della grazia. Quindi, anche arrivando in Italia, il Paolo che incontriamo è un Paolo associato a questo elemento. Secondo tratto, avevamo detto la volta scorsa, riflettendo sulla presenza di Paolo a Malta, che il ministero di Malta era stato caratterizzato da una tipologia precisa di predicazione, di annuncio. Avevamo detto che l'evangelizzazione di Paolo può avere tre sfumature diverse. Può essere l'evangelizzazione attraverso la parola, cioè i discorsi, il confronto, il dialogo, la spiegazione delle scritture, quando va nella sinagoga e quindi cerca di commentare le scritture alla luce di Cristo. Può essere un'evangelizzazione impostata sulla testimonianza, e abbiamo visto ad esempio che tutto il percorso che da Cesarea lo porta a Siracusa è praticamente un percorso dove Paolo si distingue per la sua testimonianza di vita e per la sua capacità di far fronte con le sue doti umane e anche con la sua fiducia ovviamente nel Signore, con la sua capacità di discernimento alle problematiche, comprese quella del naufragio o delle situazioni di bisogno presenti nell'isola di Malta. Quindi lì l'evangelizzazione non passa più da discorsi, ma passa dalla testimonianza di vita, dalle relazioni, dalla capacità di Paolo di andare incontro alle persone. E poi c'è una terza sfumatura che caratterizza soprattutto la presenza di Paolo a Malta, quindi prima di arrivare a Siracusa, ed è l'annuncio, l'evangelizzazione attraverso i segni. Quindi abbiamo visto che nell'isola di Malta Paolo compie tre segni sostanziali molto forti. Il primo è quello di essere indenne dal morso di una vipera che viene risvegliata nel momento in cui lui prende delle sterpi e le getta nel fuoco, dei rami secchi li getta nel fuoco, una vipera viene risvegliata da questo, lo morde, però Paolo non ne risente assolutamente, proprio come era stato annunciato da Gesù alla fine del Vangelo, quando dà il mandato missionario da risorto ai discepoli perché vadano nel mondo e quindi li accompagnava la loro parola con i segni. E tra questi segni c'era proprio quello che prenderanno in mano i serpenti e questo non recherà loro alcun danno. Ora, questo si realizza in Paolo, quindi è uno dei segni che lui compie a Malta. E accanto a questo segno però abbiamo anche la guarigione del padre del primo dell'isola che era affetto da febbre e dissenteria. Anche questo richiama l'inizio del ministero pubblico di Gesù, no? Dove Gesù aveva iniziato il suo ministero con la guarigione della suocera di Pietro, qui è il padre di Publio, quindi il padre del primo dell'isola, quindi di un uomo pagano. E poi il terzo segno è il fatto che tutti gli abitanti dell'isola si presentano a lui e lui li guarisce quanti sono affetti da malattie e infermità. Quindi il ministero di Paolo nell'isola di Malta è caratterizzata da un terzo tipo di evangelizzazione. Non ci sono discorsi, c'è certamente la testimonianza di vita ovviamente, però è quello che viene messo più in evidenza è l'aspetto del Paolo taumaturgo, del Paolo dei segni. Qui dobbiamo intendere bene cosa intendiamo per il Paolo taumaturgo, perché noi abbiamo dentro di noi l'immagine del segno come qualcosa di straordinario destinato a una persona precisa. Ora, nella visione evangelica il segno non è qualcosa di straordinario, ma è qualcosa che dovrebbe entrare nell'ordinarietà della vita cristiana, cioè chi è il cristiano vero? È colui nel quale il Cristo può vivere, è colui nel quale il Cristo prende forma e prendendo forma la sua vita irrompe. Uso sempre l'immagine della spugna, no? Se la spugna è bagnata d'acqua, uno toccando la spugna si bagna. Se uno è imbevuto di Cristo, uno incontrando quella persona incontra Cristo. Quindi, se uno è pieno di Cristo, la vita di Cristo passa. Ecco allora che il segno è l'emblema, la dimostrazione che la vita di Cristo, Cristo abita in Paolo. Quindi, non è qualcosa di straordinario, ma è l'ordinarietà della vita cristiana che trova la sua espressione più matura. E non è destinata ad una persona, cioè il segno non è destinato al malato che viene guarito, ma è destinato alla comunità, cioè la comunità che vedendo il Cristo vivo in mezzo a sé, si pone in un atteggiamento di accoglienza, di ascolto, di disponibilità a lasciarsi plasmare. Bene, quindi questo è il Paolo che arriva a Siracusa, un Paolo che sarà caratterizzato dall'immagine dell'acqua, dovunque va, dicevo, sorgeranno dei pozzi, delle sorgenti, ed è un Paolo che è caratterizzato dal segno. Dovunque Paolo va, c'è il segno di un serpente o di un elemento maligno che viene in qualche modo calpestato e ucciso, proprio per sottolineare la presenza del Cristo vivo. C'è poi un terzo elemento che è collegato all'elemento del segno, ed è l'elemento del pungiglione. Abbiamo detto che nell'isola di Malta Paolo viene morso da una vipera. Gli studiosi dicono che il tema del morso o il tema della puntura accompagna un pochino tutta quella che è la vicenda dell'Apostolo Paolo. Pensate al momento della sua conversione, Gesù in al capitolo 26 degli Atti degli Apostoli, quando si rivolge a lui sulla via di Damasco, dirà: chi è duro recalcitrare contro il pungolo? E qui è la prima volta che entra nell'immaginario di Paolo l'immagine proprio del pungolo, della puntura, del pungiglione. Un secondo episodio è quello della famosa spina nella carne, dove Paolo riconosce di essere, come dire, travagliato, di avere un percorso di fede travagliato, perché c'è una spina, un qualcosa che si è incastonato nella sua carne che gli provoca dolore e che lui ha pregato, per la quale lui ha pregato ben 3 volte per essere liberato, ma questo non si è ancora verificato. Ora, questo pungiglione che cos'è? Le interpretazioni sono state tra le più diverse. Io ritengo che si tratti proprio di quei falsi fratelli che dovunque Paolo va cercano di annacquare il suo insegnamento, cercano di screditare la figura di Paolo. Però al di là dell'interpretazione, quello che a noi interessa è questo pungolo che morde Paolo, che provoca in lui dolore. Un terzo elemento, legato sempre al tema del pungiglione, lo troviamo nella lettera ai Romani e anche nella lettera ai Corinti, quando Paolo parla della morte come un pungiglione che va a ferire la nostra vita e aggiunge che il pungiglione della morte è il peccato, ma subito dopo precisa: sia resa gloria a Dio che in Cristo ci ha liberato da questo pungiglione, ci ha liberato dal peccato con la sua grazia. Quindi vedete, una terza volta. E poi c'è questo momento dove a Malta Paolo viene morso viene morso dalla vipera. Quindi c'è dentro di sé, il morso della vipera che inietta un veleno di morte che però non reca alcun danno all'apostolo. Bene, il Paolo della Sicilia, vedremo, è un Paolo che è associato non solo al segno, ma alla capacità di liberare coloro che vengono morsi da tutti quegli animali che, tutti quegli insetti o quei rettili che in qualche modo iniettano veleno. Quindi Paolo viene venerato come colui che libera dai ragni, dai morsi degli scorpioni, dai morsi delle tarantole, dai morsi delle vipere. E attorno a questo poi vedremo si sviluppa tutta una serie di tradizioni. Quindi un Paolo che è ben caratterizzato dalla storia che lo precede. Bene, lasciamo ora una breve pausa musicale prima di entrare nelle caratteristiche di questo Paolo che giunge a Siracusa. Ecco, per coloro che di voi hanno la possibilità di farlo, invito ad aprire gli Atti degli Apostoli sul capitolo 28, in modo da avere un po' presente quanto abbiamo sintetizzato in questa prima parte della nostra conversazione. Quindi lascio spazio alla regia per un breve stacco musicale. Ed eccoci con l'Apostolo Paolo che arriva a Siracusa. Il testo degli Atti degli Apostoli dice che Paolo e i suoi compagni si fermarono a Siracusa 3 giorni. Bene, cosa fa Paolo in questi 3 giorni e soprattutto dove Paolo approda? La tradizione del luogo ci dice che Paolo sarebbe approdato non nell'attuale Siracusa, ma a Porto Ulisse, che si trova sul versante meridionale, un po' distante da Siracusa, al confine tra il territorio di Ispica e quello di Pachino. E subito ci sorge la domanda: come mai Paolo non è approdato direttamente nella città di Siracusa, più vicino alla città di Siracusa? E soprattutto, come mai la tradizione fa viaggiare Paolo un po', come dire, ai margini della grande città? Solo alla fine lo fa entrare nella città e incontrare la comunità locale. Alcuni, malignamente, dicono che Paolo non sarebbe entrato direttamente nella città di Siracusa perché la comunità di Siracusa era una fondazione petrina, cioè era una chiesa nata su mandato dell'Apostolo Pietro. Pietro vi avrebbe mandato il protovescovo Marciano quando Pietro si trovava ancora ad Antiochia. Quindi Paolo, una delle caratteristiche di Paolo è non andare a mescolare in un certo senso o a creare problemi in una comunità che era già fondata da altri. Lui stesso lo dice: io non ho portato il Vangelo dove altri hanno già seminato. No, ognuno ha i suoi ambiti, quindi se Pietro aveva mandato il protovescovo Marciano nella città di Siracusa, Paolo, arrivando da prigioniero a Siracusa, cerca di addentrarsi in altri luoghi. Ma dove noi recepiamo queste narrazioni? Allora, la narrazione un po' più antica e più dettagliata della presenza di Paolo in questi 3 giorni a Siracusa proviene da un testo del XVI secolo, quindi siamo attorno al 1500 più o meno, redatto da un gesuita il cui nome è Ottavio Gaetani. Questo gesuita narra nel dettaglio, in una sua opera, esattamente in 2 interi capitoli, il passaggio di Paolo in terra di Sicilia. E lui narra così: l'Apostolo Paolo, costeggiando la Sicilia, da Pachino al Peloro, quali monumenti lasciò nello stesso litorale? Non mancano prove a conferma che la navigazione di San Paolo dall'isola di Malta a Siracusa fu lenta. Infatti, prima che egli, trasportato dalla nave, approdasse nel porto di Siracusa, noi crediamo che sia sceso nella spiaggia al di qua del promontorio di Pachino ed abbia visitato i luoghi vicini. Quindi Paolo non approda subito a Siracusa, ma un pochino più in là. Alcuni spiegano questo dicendo che ciò era dovuto alle correnti avverse e queste correnti avverse avrebbero anche obbligato Paolo a costeggiare la Sicilia da Siracusa al Peloro, cioè a Messina, prima di attraversare lo stretto. Addirittura la tradizione, come poi ascolteremo, obbliga Paolo a pernottare a Messina, e questo gli darà l'occasione di incontrare la comunità locale. Del resto lo sappiamo, quando lì ci sono le correnti molto forti all'interno dell'acqua è davvero pericolosa la traversata, quindi questo avrebbe in qualche modo, secondo queste tradizioni, obbligato Paolo a trattenersi. E qui, una volta che Paolo approda a Porto Ulisse, dove Paolo va a finire? Qui le narrazioni sono diverse, non c'è solo il racconto del nostro gesuita Ottavio Gaetani, ma altri narratori, sempre del XV-XVI secolo, che scrivono così: nella grossa terra di Spaccaforno, Ispica, ritrovasi una fonte le cui acque uccidono col tocco i serpenti, e ben attribuisce tal virtù all'apostolo Paolo che eccitò questa fonte nel passar da tal luogo. Un altro autore, nella Storia di Malta, scrive: l'apostolo nel castello di Spaccaforno sfece scaturire una fonte al contatto della cui acqua i serpenti si intorpidiscono e muoiono. Ora, questa località è la località vicino proprio a Porto Ulisse, cioè dove Paolo sbarca. È interessante notare come qui viene associato il tema dell'acqua e il tema del morso dei serpenti. L'abbiamo detto prima, no? Cioè Paolo giunge nella terra sicula con questa caratteristica, con la caratteristica di trasformare le acque cattive in acque buone e con la capacità di guarire dal morso dei serpenti. Ma riprendiamo il racconto del gesuita, che dice: è antica tradizione presso gli abitanti di Noto e gli abitanti di Pachino che l'apostolo Paolo, giunto in quei luoghi, penetrò fino al quarto miglio nel territorio elorino, che oggi è chiamato Saccolino. In quel luogo fu edificata dai posteri una chiesa vicino al fiume Eloro, dedicata all'apostolo Paolo, che ancora oggi c'è, in memoria della sua venuta. Né da essa è lontano un pozzo tenuto in somma venerazione, la cui acqua quelli che la bevano o vi si lavano sono guariti da varie malattie, soprattutto è efficace contro le ferite e i morsi nocivi delle bestie. Nel campo che ha nome Belliscala vi è un altro pozzo, presso il quale, per la stessa virtù e grazia dell'apostolo, sono operati molti miracoli. Certamente dalla venuta di San Paolo in questi luoghi risulta con certezza che la sua navigazione lungo il litorale della Sicilia fu lenta, e questo non avvenne senza una singolare provvidenza divina, in modo che l'apostolo illuminasse la Sicilia e convertisse a Cristo con la sua predicazione quelli che poteva. Quindi la navigazione è lenta, probabilmente per le avverse condizioni meteo. Paolo dedica questi 3 giorni per visitare l'entroterra, e tra l'altro queste erano davvero zone paludose dove le acque erano cattive. E nella storia Paolo passa, nella tradizione dei fedeli, come colui che ha trasformato le acque cattive in acque buone e ha guarito dal morso dei serpenti. E da qui Paolo poi percorre tutta una serie di territori, la narrazione dovrebbe essere molto articolata, ma qui citiamo soprattutto 2 luoghi, Solarino e Palazzolo a Creide, che ancora oggi sono proprio dedicati all'apostolo Paolo. Tra l'altro uno di questi luoghi, Palazzolo a Creide, è patrimonio dell'UNESCO, e se volete anche solo avere un saggio delle festività che circondano l'apostolo, basta andare online e vedere su YouTube la solennità con cui l'apostolo Paolo viene celebrato e festeggiato in questi luoghi. Ma torniamo a questo racconto del XV secolo, dove viene narrato con precisione il percorso di Paolo. Continua il nostro gesuita: crediamo che egli si recò nei luoghi e villaggi vicini a Siracusa. Sebbene infatti veniva condotto a Roma in catene, per l'umanità del centurione Giulio che lo teneva in custodia, era trattato con molta riverenza. L'abbiamo visto prima, cioè Paolo, per la sua testimonianza di vita, diventa un po' il punto di riferimento di tutti quelli che sono sulla nave, compreso il centurione Giulio. Infatti a Sidone gli fu da lui concesso di recarsi dagli amici. Il testo biblico ce lo dice in Atti 27, che giunti a Sidone, il centurione permette a Paolo di visitare la comunità locale e occuparsi delle sue cose. A Malta, presso Publio, fu ospitato per 3 giorni. Continua il racconto. Perciò non abbiamo dubbi che fu permesso al dottore delle genti di agire liberamente a Siracusa, predicare il regno di Dio ed anche recarsi nei vicini villaggi. Ed eccoci a noi. Certamente a circa 8 miglia di distanza da Siracusa, nella terra detta Solarino, c'è una chiesa insignita del titolo di San Paolo Apostolo, di antica architettura. Vi si trova un pozzo la cui acqua gli infermi bevono e vi si bagnano, e con l'invocazione dell'Apostolo Paolo sono operati molti frequenti miracoli, come attestano gli ex voto i quadri appesi a conferma dei benefici arrecati ai mortali dal Santissimo Apostolo. Presso i Siracusani c'è l'antica tradizione che San Paolo Apostolo, quando venne a Siracusa, giunse a Solarino e lì fu eretta una chiesa dai cristiani in sua memoria. Invero in quel luogo si trovano resti di antiche abitazioni, forse in quel tempo vi fu un villaggio che l'Apostolo visitò spinto dalla sua carità. Ovviamente a Solarino, che tra l'altro porta nel suo nome anche il nome San Paolo, cioè oggi è stato ripristinato proprio il nome di questa piccola cittadina in San Paolo Solarino, sono stati effettuati degli scavi archeologici e hanno portato alla luce 2 differenti strati di momenti abitativi significativi, uno del IV-III secolo avanti Cristo e un altro del II-IV secolo dopo Cristo. Ed è proprio di questo periodo che sembrano appartenere alcuni luoghi di venerazione, una grotta, un pozzo e i resti di una chiesa. E la grotta è ancora oggi visitabile, non è una grotta scavata nella roccia, ma una grotta ipogea, cioè che è scavata nel terreno, cioè scende fino a 4 metri più in basso sottoterra e ha un diametro di 15 metri. In questa grotta ci sono proprio dei segni della venerazione dell'Apostolo Paolo. Poi c'è il pozzo, sempre il tema dell'acqua, e nelle vicinanze del pozzo la tradizione vuole che Paolo abbia anche lasciato l'impronta di un piede per il segno, insomma, del suo passaggio. Quindi vedete, c'è una tradizione che si è sviluppata, però nello stesso tempo questa tradizione appoggia su alcuni elementi che sembrano avere una certa affinità con la verosimiglianza, insomma, dei fatti. Subito dopo Solarino il testo dice che l'Apostolo sarebbe passato da un altro paese che viene identificato con il paese, la cittadina di Palazzolo Acreide. Da Solarino a Palazzolo Acreide, anche qua la cosa curiosa è che la tradizione di Paolo è associata sempre all'acqua e al morso delle vipere. E qui diventa curioso notare come attorno all'Apostolo Paolo nasca una tradizione un po', cioè per noi con la mentalità di oggi è una tradizione strana, ma riletta alla luce della fede può avere un suo perché. Ovviamente tutto va colto con prudenza, con sapienza, però è interessante ciò che si sviluppa a volte attorno a un versetto della scrittura. E la tradizione di cui vi parlo è la tradizione dei cosiddetti ciarauli. Chi sono i ciarauli? I ciarauli, sarebbero una dinastia di persone che devono avere alcune caratteristiche particolari e che ricevono dall'Apostolo Paolo, secondo la tradizione, il dono di guarire coloro che sono morsi da serpenti, da ragni, da vipere, da scorpioni. I ciarauli in genere sono persone di sesso maschile, anche se nella storia ci sono state persone di sesso femminile che hanno ricevuto questo dono. Devono avere la caratteristica di nascere nella notte tra il 24 e il 25 gennaio o tra il 28 e il 29 giugno, che sono due celebrazioni legate proprio a Paolo. Il 25 gennaio è la conversione di Paolo, il 29 giugno è la festa dei santi Pietro e Paolo, e alcuni aggiungono a questo anche il fatto di essere, di nascere nella notte di Natale, come luogo. E poi avrebbero anche come segno caratteristico quello di una conformazione particolare della parte sotto la lingua, no? Queste persone riceverebbero da Paolo la cosiddetta mirabile facoltà. Che cos'è la mirabile facoltà? È quella di saper sanare coloro che sono morsi da tutti questi insetti o rettili, e addirittura loro stessi sarebbero immuni da qualunque morso o puntura di animali velenosi. Nel passato, attorno a questo, c'era, durante soprattutto le feste in questi paesi, Solarino, Palazzolo, Acreide, c'era proprio la presenza di queste persone che erano così avvolte dai serpenti o dai rettili, proprio per mostrare che loro erano immuni da qualsiasi morso o puntura velenosa. Però è interessante notare come tutto questo è strettamente associato al Paolo che arriva a Siracusa, il Paolo dell'acqua che da morte diventa l'acqua della grazia, il Paolo che vince la puntura, i morsi. Ora, è chiaro, qui è legato ai morsi dei rettili, però sappiamo che sullo sfondo c'è il brano della lettera ai Romani dove Paolo dice il vero morso è quello del peccato, e quindi Paolo si presenta come colui che porge l'annuncio del Vangelo che libera dal morso del peccato. Quindi vedete il percorso di Paolo in questi luoghi, che ancora oggi custodiscono una tradizione antichissima legata all'Apostolo Paolo, viene, come dire, tramandata di generazione in generazione. E da Palazzolo Paolo poi dove va? Da Palazzolo Paolo giungerebbe finalmente a Siracusa. Di questo ne parla anche San Giovanni Crisostomo, quindi si torna molto molto indietro nel tempo, si arriva al terzo, quarto secolo dopo Cristo, dove si dice che Paolo visitò la comunità locale, però la visita alla fine, prima di ripartire, avrebbe un incontro con il protovescovo Marciano, che lo accoglie in quella che è la famosa grotta venerata, e lì Paolo, ancora una volta, compirebbe alcuni miracoli, compirebbe il segno di guarire persone che sono morse da rettili, e nello stesso tempo, picchiando tre volte col piede per terra, farebbe sgorgare una sorgente di acqua buona, che permette alla popolazione del posto di dissetarsi. Ancora oggi, a Siracusa, nella zona dell'Apollonion, che è in una zona ben precisa di Siracusa, c'è ancora una chiesa dedicata all'Apostolo Paolo, che sorge a sua volta su un edificio molto più antico, e si trova nell'isola di Ortigia, in una piazzetta delimitata da via dell'Apollonio, nel cosiddetto quartiere dei pescatori. Sorge oggi questa chiesa di San Paolo, che è costruita su un'antica basilica paleocristiana. Quindi vedete, si tramanda una tradizione che ha come punto d'appoggio il versetto 12 del capitolo 28 degli Atti degli Apostoli, tanto vero che proprio sul timpano di questa di questa chiesa si legge in latino: qui Paolo rimase per 3 giorni. Nello stesso tempo questo dato biblico si sviluppa ovviamente tutta una serie di tradizioni. Ma lasciamo ancora un breve intervallo di tempo prima di concludere la nostra conversazione del Paolo in terra di Sicilia con un ultimo piccolo accenno all'arrivo di Paolo a Messina. Quindi chiedo alla regia di permetterci di respirare un attimo con un breve stacco musicale, dopodiché continueremo con questo ultimo passaggio di Paolo in terra sicula. Quindi, cari ascoltatori, stiamo seguendo un po' l'itinerario di Paolo nella terra di Sicilia, un itinerario di cui gli Atti degli Apostoli non parlano, gli Atti degli Apostoli parlano solo dell'approdo di Paolo a Siracusa, ma abbiamo visto come la tradizione da qui sviluppa tutta una serie di itinerari che hanno una loro verosimiglianza, itinerari che da Porto Ulisse ci portano ad alcuni quartieri vicini per poi approdare a Solarino, a Palazzolo, a Creide e da lì Paolo giungerebbe nella comunità locale di Siracusa e stavamo dicendo che poi da Siracusa si rimette in cammino, o meglio in navigazione, però non approderebbe subito a Reggio come dicono gli Atti degli Apostoli, ma sarebbe costretto dalle avverse condizioni del mare a sostare ancora una notte a Messina. Tra l'altro, tra parentesi, è interessante notare come nel 2010-2011 ci fu un tentativo da parte dei comuni siculi più interessati al percorso di Paolo di costruire, di delineare una sorta di cammino di Paolo in terra sicula. Quindi era una sorta di percorso che nella intenzionalità era un percorso da fare a piedi. Sapete, siamo in un periodo dove le vie del cammino, le vie di cammino dove si cammina, dove si fa esperienza dei luoghi hanno particolare successo, al di là del cammino di Santiago che è il cammino per eccellenza, però sappiamo che si sono sviluppate o sono state ritrovate molte vie, la via di Francesco, la via Francigena e appunto in terra di Sicilia si voleva delineare una sorta di cammino di San Paolo, dove proprio c'era il passaggio in tutti questi luoghi, nella delineare il cammino di San Paolo, Solarino, Palazzolo Acreide, Siracusa, Messina, erano senz'altro dei luoghi chiave, oltre ad altri comuni che hanno una certa pregnanza per la ricchezza culturale del luogo e la ricchezza delle comunità cristiane del luogo. Bene, chiusa la parentesi. Detto questo, vediamo come continua il racconto del nostro amico gesuita, il quale dice che dopo che Paolo ha visitato Siracusa, ecco il percorso che fa. La nave di San Paolo, scrive, dopo che salpò da Siracusa, costeggiando il litorale siculo, deviando dal suo corso, si fermò nel lido che c'è tra Taormina e Messina, dove ora c'è una chiesetta sacra a San Paolo Apostolo. C'è infatti antica fama presso gli abitanti del luogo che San Paolo, costeggiando la Sicilia, si è approdato in quella insenatura sul cui colle sovrastante c'è il monastero di San Placido e che sostò in quel lido che dista 10 miglia dalla città di Messina. In quello stesso lido e luogo, calcato dai piedi dell'Apostolo, la comunità cristiana, quando la fede di Cristo fu cresciuta, costruì una chiesa sacra a San Paolo, piccola ma segno di grande pietà, la quale testimoniasse la discesa dell'Apostolo in quel lido e tramandasse ai posteri la memoria dell'evento. Quindi Paolo, di fronte alle avverse correnti, si ferma sulla costa e approda in quella che sarà denominata, fino ad oggi è chiamata così, proprio Cala San Paolo. La spiaggia ancora oggi porta questa denominazione e nel posto dove Paolo approdò viene custodito un masso, una grande pietra, dove si ritiene che Paolo abbia cominciato a parlare agli abitanti del luogo. E qui si sviluppa una tradizione davvero curiosa, perché allora le ricostruzioni sono diverse, non è che tutti i narratori ricostruiscono l'episodio nello stesso modo, per cui è chiaro che magari alcuni di voi sentono un dettaglio diverso da quello che possono aver sentito prima, ma vi assicuro che ho provato a mettere in fila diverse narrazioni, no, di questo episodio, e tutte più o meno si aggirano al XV-XVI secolo. Però tirando un po' le fila delle narrazioni, potremmo dire che Paolo è arrivato sul luogo, comincia a dialogare con la popolazione, lì mentre annuncia il Cristo si rende conto che la popolazione fa fatica a recepire il messaggio che lui vuole comunicare, perché è una popolazione pagana. E allora Paolo cosa fa? Cerca di narrare la vita di Gesù e i misteri della fede a partire dalla sua nascita, dalla sua storia. E lì avrebbe parlato della Vergine Maria, dicendo, assicurando alle persone che lo ascoltavano, assicurando che se volevano Maria era ancora viva, potevano andarla a incontrare. E da lì si sviluppa quest'altra tradizione secondo la quale la gente del posto resta talmente incantata dall'annuncio di Paolo e dalla storia di Gesù, che non appena Paolo riparte l'indomani, cosa fanno? Organizzano una delegazione che va a Gerusalemme a verificare l'annuncio di Paolo e va a Gerusalemme a incontrare Maria, ormai molto anziana, ma ancora viva. E la tradizione dice che Maria, ricevendo questa delegazione che proviene dalla Sicilia, resta così colpita dalla fede semplice ma anche trasparente degli abitanti di Sicilia, che affida loro una lettera scritta di suo pugno che verrebbe legata con una ciocca di suoi capelli e affidata loro viene portata nella città di Messina. Tra l'altro la tradizione porta addirittura i nomi dei messinesi che compongono la delegazione. No, non mi soffermo su questi nomi, però è interessante notare come poi la tradizione aggiunge tanti dettagli, no? I messinesi fanno ritorno l'8 settembre dello stesso anno e recano con loro la lettera che oggi è conservata proprio nella cattedrale di Messina. E la lettera dice così: Maria Vergine, figlia di Gioacchino, umilissima serva di Dio, madre di Gesù crocifisso, della tribù di Giuda, della stirpe di Davide, pace a tutti i messinesi e benedizione a Dio Padre Onnipotente. Ci consta, per pubblico strumento, che voi tutti con fede grande avete a noi spedito legati ambasciatori e confessate che il nostro figlio generato da Dio sia Dio e uomo, e che dopo la sua risurrezione salì al cielo, conoscendo voi la via della verità per mezzo della predicazione di Paolo Apostolo Eletto. Per la qual cosa benediciamo voi e la stessa città, della quale noi vogliamo essere perpetua protettrice, da Gerusalemme, data del 3 giugno. È curiosa, no? Questa lettera, poi ovviamente ci sono state tutte le analisi del tipo di inchiostro, del tipo di scrittura, ma al di là di quello a noi interessa la tradizione, che verrà poi immortalata nella statua della Vergine che si incontra nella traversata dello stretto, dove ai piedi della statua c'è proprio l'ultima frase di questa lettera: benediciamo voi e la stessa città della quale noi vogliamo essere perpetua protettrice. E da lì viene tutta la tradizione della Madonna della Lettera. La Madonna della Lettera che è interessante perché ci riporta l'unica lettera scritta da Maria sulla spinta dell'Apostolo Paolo. Cioè, è interessante, Paolo passa alla storia, e questa è storia, per aver scritto tante lettere alle comunità cristiane, e si fermerebbe a parlare di Cristo alla comunità messinese annunciando la storia di Gesù e il suo messaggio. La gente incuriosita dalla narrazione su Maria va a trovare Maria ormai anziana, e anch'essa viene spinta, in un certo senso colpita dalla semplicità della fede dei messinesi, viene spinta a scrivere una lettera proprio come l'Apostolo Paolo, e la consegna ai delegati perché la portino nella città di Messina a perenne memoria della benedizione che lei invoca da suo figlio sulla città. Ecco, vedete come la tradizione si intreccia con la storia, mostrandoci un volto inedito di Paolo, che è però il Paolo che caratterizza il passaggio dell'Apostolo in Italia. Un Paolo che sa trasformare le acque cattive in acque buone, e un Paolo che sa guarire dal morso, soprattutto dal morso del peccato, ciò che lui ha vissuto nella sua conversione, dove da una situazione di vita abbarbicata alla legge diventa strumento della grazia divina. Questo diventa poi l'annuncio che Paolo porta e trasmette alle diverse popolazioni che incontra diffondendo il Vangelo. Ecco, cari ascoltatori, questo era quello su cui mi volevo soffermare proprio questa sera. La volta prossima, nella nostra conversazione, ci soffermeremo invece su Paolo, non in terra di Sicilia, ma in terra di Calabria, perché ogni regione, vedremo nell'arrivo progressivo di Paolo a Roma, ha sviluppato una serie di tradizioni che ci legano in modo particolare all'Apostolo delle Genti. Ora lascio a voi la parola. Come la volta scorsa, ecco, confido che i vostri interventi, le vostre domande siano davvero di stimolo all'approfondimento della parola di Dio e anche all'approfondimento di queste tradizioni legate all'Apostolo Paolo su cui ci stiamo soffermando in questi nostri incontri. Quindi lascio la parola alla regia, che vi darà indicazioni su come contattarmi e continuare alla luce delle vostre domande il dialogo insieme. Pronto, buonasera, con chi parlo? Pronto, buonasera, parlo con Graziella, sono Graziella da Messina. Oh, bene Graziella, mi dica. Sì, sono felice di aver ascoltato questa bella... Io sono sempre molto attaccata, molto Radio Maria, tutte le ore. Mi fa molta compagnia, sono vedova e ringrazio il Signore che c'è questa santa radio. E volevo dirle che noi messinesi siamo molto affezionati qui alla nostra cara mamma Maria. La storia per poco la sapevano, non così bella, così esplicita come lei ce l'ha raccontata. È molto bello sapere questo della nostra città, della nostra cara madre Maria, e me la sento ancora più vicina, è bellissimo. Grazie, grazie, grazie Radio Maria, grazie. Grazie Graziella per il tuo intervento. e la gratitudine ovviamente è anche mia, perché io dico sempre che quando si spezza la parola di Dio, alla fine la parola torna reduplicata, no? Duplicata nei nostri cuori, e così anche quando si approfondisce l'Apostolo Paolo e si scoprono piccoli tesori che poi permettono di entrare in contatto con fonti o persone del posto, e questo si traduce in una ricchezza di tradizioni, di storie che certamente possono essere ancora arricchite. Quindi spero che questi momenti di dialogo spingano anche chi abita in quel posto ad essere davvero contenti delle tradizioni loro affidate e aiutarci a conoscerle. Grazie per il suo intervento. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parlo? Sono Concetta d'Aosta. Senta, a conferma di quanto lei ci ha narrato stasera, volevo dirle che nell'Evangelo, come mi è stato rivelato, di Maria Valtorta, c'è una donna, tale Aglae di Siracusa, che poi diventerà, era una schiava, diciamo, una schiava, un signorotto della Palestina, e era poi discepola di Gesù, e anzi metterà anche a disposizione i propri gioielli per un ipotetico, che poi non si realizza, riscatto del Battista. E quindi lei dona tutti i suoi gioielli agli apostoli, che li venderanno, ma poi dopo non riescono a riscattare comunque il Battista dalla sua prigionia. Quindi quanto lei ha detto stasera è narrato molto bene nell'Evangelo, e questo si chiama Aglae di Siracusa. Chissà che anche Pietro, che l'ha conosciuta, perché poi divenne anche discepola di Gesù, non abbia raggiunto questa parte della Sicilia in base alle indicazioni di questa donna. Grazie Concetta. Ovviamente attorno a quelle che sono le narrazioni dei Vangeli o le narrazioni degli Atti degli Apostoli, c'è tutto poi anche accanto ovviamente al racconto evangelico, c'è, come dire, un primo anello che è caratterizzato dalle tradizioni che si sviluppano all'interno delle comunità locali, poi un secondo anello che è rappresentato dalle rivelazioni private. Ora, ovviamente tutte queste narrazioni, come ho spiegato nella trasmissione, vanno presi sempre con tanta prudenza e saggezza. Però ecco, è interessante conoscerle, perché ci fa capire come il passaggio di Paolo non è il passaggio, cioè nella narrazione noi abbiamo un versetto, due versetti, al massimo un capitolo, però poi tutto questo ha generato tanta vita, tanta storia, tante tradizioni che continuano oggi a nutrire la vita dei fedeli. Quindi grazie Concetta per il suo intervento. Pronto? Con chi parlo? Sono Graziella da Pachino, e dicevo che se può darmi i riferimenti letterari che il padre durante la conversazione ha fatto circa questo passaggio di Paolo dalla Sicilia, e soprattutto da Porto Ulisse, quando è arrivato qua nei pressi di Pachino con la bonifica delle acque, insomma, perché io vorrei proprio leggere. Io sono una professoressa di italiano e storia, e quindi sono particolarmente interessata, e mi piacerebbe approfondire questo aspetto che nessuno conosce. Certamente, certamente. Allora, il testo a cui facevo riferimento è un testo del gesuita Ottavio Gaetani, l'opera è un'opera del XVI secolo che si chiama Isagoghe. I capitoli in cui parla di questo sono i capitoli 21 e 22. Se lei anche digita, cioè uno stralcio di questi testi, soprattutto una delle ricerche fatte sulla presenza di Paolo in Sicilia, è disponibile anche online. Quindi basta digitare Ottavio Gaetani San Paolo Siracusa, e vedrà che esce tutta una parte di questo testo dell'autore, dove è possibile proprio leggere i capitoli di cui le parlavo. Lì si rendono disponibili anche altri capitoli, però sono soprattutto questi due, il 21 e il 22, che narrano nel dettaglio gli aspetti del passaggio di Paolo in Sicilia, così come poi la tradizione si è sviluppata, ma l'autore indica proprio anche dei luoghi che sono visibili sul posto, e le ricerche che sono state fatte, c'è stato un periodo in cui questi luoghi erano andati smarriti, e invece poi, seguendo le indicazioni di questo narratore, sono stati ritrovati, e erano proprio luoghi precedenti, molto precedenti, alcuni proprio del IV, V secolo, con evidenti segni di culto, e questo è davvero molto molto interessante, quindi grazie anche per il suo intervento. Allora, mi dicono dalla regia che quest'oggi il nostro tempo, il tempo che avevamo a disposizione, è terminato. Io ringrazio quante di voi sono intervenute, soprattutto le due Grazielle, una da Messina e una da Pachino, e Concetta da Aosta. Quello che mi preme lasciarvi come immagine di questa nostra conversazione è il Paolo collegato a due elementi di evangelizzazione. Il primo è l'elemento dell'acqua, quindi il passaggio dall'acqua di morte all'acqua di vita. Se ricordate, lo stesso momento del martirio di Paolo porta in sé questo elemento, perché nel momento in cui Paolo muore, nel luogo del martirio sgorgano le acque di vita, sgorga la sorgente, addirittura la tradizione dice che la sua testa fa tre balzi e dalle tre balzi nascono le tre sorgenti. La chiesa dove si ricorda questo evento è non a caso chiamata la chiesa delle tre fontane, cioè dall'acqua della morte all'acqua della vita. E il secondo elemento è Paolo come colui che non solo è immune dal morso del peccato, ma dà ad altri la capacità di sanare da questo morso. Questo perché? Perché Paolo è il grande evangelizzatore della grazia, colui che portando, testimoniando, vivendo la grazia di Cristo, riesce a sconfiggere tutto ciò che a questa grazia è contrario, e ciò che per eccellenza è contrario alla grazia è il peccato, identificato nelle sue lettere come il morso velenoso di un serpente. Quindi sono proprio queste due immagini che voglio lasciarvi, e che sono due elementi che vengono custoditi soprattutto dalla terra di Sicilia. A tutti voi quindi, cari ascoltatori, una buona continuazione di questo mese di luglio, e che la benedizione del Signore, anche per l'intercessione dell'Apostolo Paolo, possa scendere luminosa su ciascuno di voi. Produzione Radio Maria. Tutti i diritti sono riservati.